Siamo in compagnia di Lisa Ferlazzo Natoli e Maddalena Parise per parlare della nuova stagione di IF, Invasioni dal futuro 2018, che prenderà l'avvio dal 20 al 25 agosto per poi avere una data secca al Teatro India il 26. Si chiamerà La Ballardiana, questo nuovo capitolo, attraverso la sonda Rosetta. Lisa e Maddalena, ben trovate. Per Ciao. chi non conoscesse, partiamo da lontano, da IF Invasioni dal futuro e ce lo presentate. IF è nato 5 anni fa da una passione antica, cioè lavorare con le scritture della fantascienza, adattandone libri, racconti in maniera anche molto radicale e con partiture musicali che sfiorano, diciamo, il melologo, che sta cantando, partiture molto complesse che negli anni ha disegnato Gianluca Ruggeri. Perché la fantascienza? E sempre di più ne siamo convinti, perché appunto sembra una banalità, ed è una banalità, però va ripetuta, perché costantemente la fantascienza ha saputo preconizzare modelli più o meno distopici di mondo che sono più avverati, e anche riflettere su modelli immaginifici di realtà, che è quello che noi abbiamo un po' invece smesso di fare, e in terzo luogo quella cosa che chiamiamo l'incontro con l'altro, il più radicale, rivelando paure collettive, antropologiche o anche quel percorso invece che si deve fare per incontrarlo. In questo percorso avete fatto degli ostacoli, una sorta, avete modificato l'opera in corso e servendovi di questa sonda Rosetta per una nuova forma che avete dato a questa formula. Sì, perché dopo questo primo triennio all'Auditorium di Vicinate, dove abbiamo deciso di, e non a caso, ambientare le scritture della fantascienza e tutto IF, anche con un lavoro di videomapping, in un ninfeo di 2300 anni fa, quindi scendendo, andare indietro nel tempo da una parte e invece poi si finì in un futuro anteriore. Quella è stata un'epoca importante, bella, dove IF si è compresso là dentro, no? In qualche modo facendo esplodere l'Auditorium. Poi gli anni cambiano anche le riflessioni, guardandoci intorno a Roma ci siamo proprio resi conto che avevamo desiderio di disseminare queste storie e in quartieri anche non facili, e quindi la sonda Rosetta che abbiamo costruito, che è stata ideata da Mama Factory e Alessandro Ferroni, letteralmente si trova in mezzo ai quartieri dei cittadini e loro liberamente, gratuitamente possono ascoltare una storia d'estate se ne hanno voglia. Chi ha voglia può seguire tutta la mappa. Diciamo che farà IF per esempio quest'anno, e quindi scoprire per esempio quartieri nuovi, magari dove un romano, che so, San Basilio, per quanto ormai sia molto importante per tutti i dipinti che ci sono, magari non è mai andato. Quindi era proprio un'esigenza di disseminazione, di invasione della città gratuita. Per poi concludere negli spazi di India, quest'anno e l'anno scorso è solo una serata finale evento dove la Ballardiana viene restituita live e sempre con un racconto in più, con un racconto inedito. Negli spazi meravigliosi, industriali e metafisici di India, anche là con lo scopo di portarvi spettatori non teatrali, no? Magari quelli che abbiamo raccolto in giro per la settimana con Rosetta. Presentiamo un po' questa ballardiana. Presentiamola. Allora, abbiamo fatto una lunga e insomma abbiamo letto tutti i due volumi perché Ballard ha scritto molto, ha scritto in maniera molto diversificata. La grande differenza è che negli anni scorsi noi abbiamo lavorato, quando abbiamo lavorato sui racconti, Radio Recall, i Canti della Mutazione, diciamo i primi 2 anni, abbiamo lavorato su tanti autori diversi costruendo un filo rosso tra i racconti, Hick, Clark, Shakley. Quest'anno invece abbiamo lavorato su un solo autore che però ha esploso il suo sguardo in maniera assolutamente, diciamo, imprevedibile. Quindi in realtà questa serata si è costruita piano piano, abbiamo identificato due luoghi più uno, diciamo così. Un primo luogo è Vermilion Sands. Vermilion Sands è un po' quello, per Ballard, un po' quello che è il Maine per Stephen King. Cioè un luogo, mentre il Maine di Stephen King vive, esiste, però anche lo Stephen King lo riscrive, Vermilion Sands letteralmente non esiste. È una sorta di zona desertica che ha avuto vita e media, soprattutto durante quello che Ballard chiama un intervallo lungo 10 anni, dove il mondo è mutato, ce lo fa capire da narrazioni indirette. Sono queste razze rosa meravigliose che volano, il mondo è completamente desertico, la gente non fa nulla, viene anche presa da una certa bizzarra inedia e cominciano le mutazioni. Questo mondo torna tanto nei racconti di Ballard, racconti diversi, non collegati tra di loro. Quindi cioè, ci sono sono due racconti che parlano di questo. Uno specifico di una prima, diciamo, di fiori canori che vengono accordati e di una strana creatura che è questa prima bella donna, diciamo aliena, che avrà a che fare con un'orchidea. Un'orchidea che è una grande accordatrice di piante. E mi fermo qua. Allora, passiamo al punto di vista tecnico. Sarà lettura e sarà musica. Quanti artisti e quante artiste coinvolti? Allora, abbiamo molti artisti e molti artisti. Abbiamo il cast di attori che sono i nostri storici, Tania Garriba, Alice Palazzi, Roberta Zanardo, Simone Castano, Fortunato Leccese, Silvio Segnoso e Lorenzo Treviani. E poi c'è un numero insolito, ci sono due percussionisti, Gianluca Ruggeri, anche in scena con un suo giovane allievo che si chiama Matteo, ma mi devi dare un attimo perché io i cognomi non mi ricordo. Diciamo appunto di Ballard c'è una zona che è Vermilion Sense e l'altra che sono le città distopiche, che è altrettanto importante. Ballard ha costruito negli anni modelli di città straordinari e terribili, che poi se andrete a vedere, ad ascoltare le storie, non sono poi così lontani. Questa città diffusa che sembra non finire mai, no? Dove gli uomini Sì. non riescono più a uscire, ad alto funzionamento, si fa per dire. E poi c'è una terza zona su cui torniamo, che è quella conclusiva, su cui torniamo magari dopo. Allora, il secondo giovane percussionista è Matteo Fracassi, che è un allievo di Gianluca Ruggeri. Poi ci sarà Massimo Ceccarelli, bassista storico di CSI e di tanto tanto altro, che per quest'anno sarà il nostro graditissimo ospite anche live per il nostro appunto questo viaggio sonoro. Passiamo anche agli spazi, le tappe che saranno dal 20 al 25 agosto, prima del Teatro India. Ci presentate questo contesto? Sì, allora sono 20 agosto, siamo a Tocchignattara. Ok. Il 21 saremo a Quadraro. Il 22 a San Basilio, il 23 a Tormarancia, il 24 a San Giovanni Bosco e il 25 faremo una visita inedita al MAM. Poi tutti questi posti hanno tra loro un collegamento, Sì. cioè la presenza tranne uno dove noi faremo un intervento di arte pubblica. Cioè in tutti questi quartieri c'è una presenza di murales, di opere di street art e che noi insomma, sono molto vicine e sono quello per noi l'universo visivo dei racconti di Ballard. Ok. Quindi Rosetta sarà posizionata per esempio a San Basilio, nella piazza quella proprio dei cinque palazzi con murales di animali, trasformazioni, animali fiori. A Tormarancia, vabbè, il quartiere, insomma, il condominio famoso al numero 63 di Viale Tormarancia. E come c'è cioè, anche un modo per guardare altrimenti la città avendo nelle orecchie i racconti e insomma, di Ballard. Laddove invece poi al MAM, in questa giornata speciale, in realtà gli spettatori non ascolteranno attraverso la sonda Rosetta, ma verrà dato loro un iPod. Quindi potranno attraversare il Museo dell'Altro e dell'Altrove, un luogo straordinario e singolarissimo, e ricostruire loro individualmente il paesaggio visivo accanto alle storie di Ballard, quindi come dire l'esperimento si radicalizza il 26 al MAM. 24, siamo a San Giovanni Bosco, l'unico quartiere dove non ci sono murales, ma verranno dipinte delle tre campane per il vetro a cura di Gallerie di Arte Urbana di Fabio Morgan. Quindi saranno tre artisti che dipingeranno live mentre gli spettatori ascoltano, anche qui daremo gli iPod, gli MP3, quindi mentre gli spettatori hanno Ballard nelle orecchie possono andare a vedere queste tre campane che costituiscono il perimetro di Piazza San Giovanni E Bosco. che so, e chiaramente i dipinti ispirati a Ballard, Sì, quindi noi li abbiamo già abbiamo. dato i racconti agli artisti che Gau ha selezionato, abbiamo fatto un ragionamento per cui Gau in qualche modo si sposta, dilaga anche lui dalla Garbatella fino a Don Bosco, no? Ok. Questo potrebbe aprire anche un discorso che a noi è molto caro, scusatemi, ho detto alla Garbatella, sono Marta, c'è anche Celle, anche un discorso che fa parte dell'alleanza con Gau, dell'alleanza col Mamma, appunto, è un tempo in cui Roma ha bisogno di alleanze, che i progetti si sommino e che i ragionamenti si moltiplicano, proprio perché lo stato delle cose è molto delicato, no? Sì. Quindi questa è una delle ragioni per cui IFE in qualche modo si è reso più debole, si è disseminato, si è un po' deteatralizzato, ecco, se vogliamo usare questa questa parola, perché poi ci sarà una serata finale che è molto importante, però rispetto alle iperproduzioni, no, che facevamo il primo e il secondo anno, chiaramente la natura è diversa, è più intima, è più casuale, no? Volutamente tale, ecco. Ok. Una conferenza, dedicata al tema della città, sempre il 26 alle 18:30 al Teatro India con Dario Gentili, filosofo, professore associato di Roma 3, e Daniele Balzano della Federico, cioè, progettazione urbana, docente di progettazione urbana della Federico II di Napoli, che partendo dai dispositivi di Ballard ragionano sulle città, no? Quindi il collegamento, come se Ballard fosse un relè, no? Un ponte, una stazione di lancio per pensare alla nostra città. Non a caso al Teatro India, di cui tutti i problemi che insomma in qualche modo si potrà attraversare in questo momento sappiamo bene. Dopo le tappe di agosto, cosa succederà nell'autunno-inverno? Primavera? Mi piacerebbe, come al solito, per esempio collaborare con te, rimandare via radio assolutamente i racconti. E quello che faremo però soprattutto sarà preparare l'ultimo anno sarà molto particolare, perché sarà un po' come un grande ritorno alla casa madre, quindi riprenderemo i migliori fra tutti dal vivo, e gli adattamenti che abbiamo fatto da Solari, Spagnolo Cola, Blade Runner, no? Faremo un grande festival delle fantascienze, delle riflessioni della fantascienza. Avremo un nuovo adattamento di un romanzo, che però non dico perché per il momento è segreto, e allo stesso tempo una moltiplicazione di Rosetta, infatti sarà a settembre, che trasmetterà, no, o degli iPod, vogliamo proprio moltiplicare, e allo stesso tempo realizzare una cosa che quest'anno non abbiamo potuto fare per una questione di tempi, perché non si sono incastrati i tempi, c'è Tellas, straordinario pittore muralista che ci ha fatto non a caso quest'anno l'immagine, che avrebbe dovuto fare una grande parete a Don Bosco con un suo murale quest'anno, ma non si sono incastrati i tempi, ispirata a Ballard. L'anno prossimo la realizzerà e speriamo anche di allargare il progetto Gau, insomma è come se If nel suo ultimo anno tornasse da una parte ai grandi racconti, e saranno tantissimi e saranno bloccati dal pubblico, e dall'altro anche tutte le sue operazioni seconde e terze, no? Creative, ma anche riflessive. Quindi stiamo immaginando un convegno sul cervello umano, sulle antropologie in mutazione, insomma, questo sarà. E ci dovremo lavorare molto. Ok. Allora, intanto chiaramente c'è la completa disponibilità per la messa in onda della Ballardiana, e poi deciderete voi le date, se per settembre insieme ai nuovi percorsi della Sonda Rosetta o per la nuova stagione. Questo sta a voi, insomma, però chiaramente per tutta scena teatro c'è la completa disponibilità, anzi la gioia di farlo. Per quanto riguarda il progetto IF, ci lasciate in chiusura tutti i riferimenti web per seguirvi? Sì, allora ripasso il cast, diciamo, ti dico di chi è il progetto, intanto ripasso i nomi. Un progetto di La Casa d'Argilla, Lisa Perlazzo Anatoli, Alice Palazzi, Maddalena Parise, Alessandro Ferroni, in collaborazione con Margherita Mauro, Tania Garriba, Fortunato Vincenzo, Roberta Zanardo, Silvio Insegnoso, e in struttura collaborativa con tutti i paesaggi sonori di Gianluca Ruggeri, con il sostegno del Teatro di Roma, diretto da Antonio Calvi, in collaborazione col MAM, la partecipazione appunto di Fabio Morgan, progetto GAU, disegno del suono Giuseppe Silvi, costumi Camilla Carè, fonico Pasquale Citera, aiuto regia Fabio Murialdi, coordinamento artistico Alessandro Ferroni e Maddalena Parise, e mi fermo perché siamo tantissime, va bene così. Ok. E per quanto riguarda invece tutti i riferimenti, abbiamo la pagina Facebook, ma abbiamo la pagina Facebook. Perfetto. Allora ripetiamo gli appuntamenti per agosto. E dal 20 al 25 in varie tappe della città, e poi il 26 agosto al Teatro India. Un saluto e un ringraziare dal sito del Teatro di Roma. Perfetto, perfetto. Abbiamo voluto un biglietto estremamente economico, e quindi in virtù di questo crediamo e speriamo che ci saranno molte persone. La casa d'argilla, tutto attaccato, tutto piccolo, @gmail.com. Questa è la mail a cui prenotare, anche per la visita al MAM. Esatto. Anche se è gratuita, però consigliamo di prenotare, perché abbiamo un numero limitato di Bene, la Ballardiana nuova per la nuova stagione di If Invasioni dal futuro. Un saluto e un ringraziamento a due delle curatrici, Lisa Ferlazzo Natoli e Maddalena Parise. Lisa e Maddalena, un abbraccio e a presto. Grazie a te, ciao. Ciao.